difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce più lenta, violenta sincera. Musica più lenta che mace che spera, veloce più lenta, violenta sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Martedì 9 maggio 2006. Spettacolone, è ancora da rifinire, però intanto volevo farvelo ascoltare perché certe meraviglie non posso tenerle qui solo per me. Certa musica è gridata a tutto il mondo. Va ballata in tutto il mondo. Socrate, a causa delle sue frequenti dispute, venne più volte malmenato, cosa che sopportava serenamente. Una volta che gli diedero un calcio, se lo prese tranquillamente e a chi se ne mostrava stupito disse: «Se me l'avesse dato un asino, lo citerei forse in giudizio». E un'altra volta, quando uno gli disse: «Ma quello lì non ti insulta, non ti offende?», lui rispose: «No. Ciò che dice non si adatta a me». che sta vicino. Sterrata, ma che bella camminata. Amare è un dono che non potrà togliermi nessuno. soffrire per poi ripartire. La Stampa, martedì 9 maggio 2006. Milano. Il PM chiede la condanna a 14 anni per i gioiellieri che spararono ai due rapitori. Che spararono a due rapinatori. È sbagliato. Il magistrato dice: fu un'esecuzione, non legittima difesa. Ma come siamo combinati? Sì, effettivamente i due rapinatori minimo andavano invitati a cena. Vuoi mettere il trauma che devono aver subito durante un'esperienza del genere? Cioè, ma dai, oh. Qui un giorno il magistrato e sentire un po' il suo pensiero a riguardo. Mi piacerebbe. Se ha voglia, io sono qui. Giusto per capire. Perché io non ci capisco più niente. Non si vende, non si acquista. Benvenuti al mercatino delle cose buone. È aperto a tutte le persone.

Gigi Tampostino, un piccolo postino, tipo Gigi Tampostino, un piccolo paese, tipo Gigi Tampostino, un piccolo postino, tipo Gigi Tampostino, un piccolo paese fuori dal mondo. M2O, il cammino di Gigi D'Agostino, D'Agostino. noi non interessa se il mondo corre. Noi camminiamo molto lentamente. Noi procediamo pensando, pensando, lento, violento. Prende vita. Tu sei una persona capace di farmi tremare anche senza la tua presenza. Anche senza la tua presenza. Lo fai penetrando i miei pensieri. Pensieri. E percorrendo con me i più oscuri sentieri. You let me down so many times that I forgot the very first. It's time to stop this useless relation. It's no good for. Your behavior has to stop. I don't want to see you again. I won't be the one you can blame. Stiamo ascoltando, fratello. Again. È il nome dell'artista. Lento. No, ma che cazzo sto. E mi sono sbagliato. Gigi D'Agostino, sempre lui. Se schiava mai. I remember your last smile. I remember your first light. It's time to stop this useless relation. There's a reason to go on. I hate to waste my precious time. There is no way to change my mind. You let me down with callous emotions. Your behavior has to stop. I won't be the Escobar. Momento creativo. Assaggio l'aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Situazione che spaventa, solo con te quella voglia che ritorna, solo con te. Ogni giorno ti trovo nel mio mondo, se stai con me, non c'è bisogno neanche di pensare, e svegliarsi la mattina, con la voglia di parlare, solo con te. Non è niente di speciale, ma tu, questo mi fa stare bene, solo con te. Svegliarsi la mattina, con la voglia di parlare solo con te, non è niente di speciale, ma questo mi fa stare bene solo con te. Preciso. Pubblicità. Pubblicità. Pubblicità. Pubblicità. Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Qualcuno ci ha provato, l'inventore si è incazzato. E che mo ricordo io? D'amore che fa lento violento. È arrivato, è arrivato qui, ma che cosa sei una papà? Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico, ticti, fatico. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale.